Andu, Polo, El Tambo, Tushi, No, con il cazzo, perché sei? Sabato, che pezzo di me? Ah, ma portate, sai, bubu. Ciao, va. Addio, che... Era... Va. Sentiamo... Benissimo. Cazzo. Bubu. Andiamo bene. Bubu. Poi siamo noi che rompiamo le balle, Giovanni. Ehi... Ah, che quelli ci sono, che rompono, e cosa ci puoi fare? Lasciamolo fare! Vuol dire che si vuole divertire così lui? Ahi, senza ombra di dubbio. Ai, ai, ai. Gagacu. È infame! Dile a Gian Maria che quella roba è in trance, non può vedere dove è. Non c'è tu trance, uguale. Dile a Gian Maria. Gian Maria. Oh, il babbo è Barri Avanza, hai capito la frase? No. Oh, il mio padre è un carico di paglia. Ah, vabbè. Io diciamo così, no, uriccio. Ciao Marì. Non ti sente perché lui? Ah? Non ti sente? C'è dall'altra parte lui, capito? Non mi sente da qua. Poi c'è un tennino dentro lui. Ciao Marì, non lo senti a Luca? No. Sì, però! Ciao Maria, mi senti? Tu! Esci fuori! Sono sdraiato, diglielo Luca comunque, dai! Gio Maria, ha detto Luca che quel pacco non riesce a vederlo! Ma si sarà perso il cammino, no? Dilli che è in transito! Ha perso il cammino, no? Ha detto che è in transito, come lui trans! Ah, Edo è in transito, no? No, Edo è trans! Carità, vieni, se non riesci a vederlo che si metta gli occhiali. Oh, lui, se non riesci a vederlo ti devi mettere gli occhiali, quelli tipo a boccia di saponi. Bravo lui, sì. Ma ancora parlando sta? No, Giovanni, non sta parlando. È a Graziano in Cesura. No, Graziano mi ha mandato un video su WhatsApp del porcetto. Cazzo, Zucchetti si ne ho visto, non le muore appoggio fronti, cazzo, deve essere altro allora. E allora, mi tocca essere più casina. Vabbè, sabato sera, se tocca si esci, così che... Dove va? Mangia la pizza? Allora io ho mangiato il panino, la fritta, non mi ha saziato, no, non mi ha detto niente. Alla fine era meglio la pizza. Adesso vediamo, no, se no mi dico Maria, mangiamo a casa. No, sto salendo a casa che mamma non sta bene, capito? No, la glicemia è apposta, pure è un po' a terra come donna, non so cosa abbia. Ehi, che sai com'è? Questo periodo magari, e poi... La donna è grande, è anziana, invece che gli attacchi ci saranno, per cui un po' si sentono bene, un po' si sentono la cazzo. Come tutti noi, un po' ci sentiamo male, un po' ci sentiamo bene. Boh. Ah, mamma non è anziana, dai, c'ha 72 anni, non è... Cazzo. Bello, certo, è una ragazzina, no? 62 anni, secondo che cosa ha fatto nella vita e... gli acciacchi ce li avrà. Senza dubbio ha sofferto, poi si è fatto grandi, 5 figli maschi, e poi tutto quello che ha passato, tutti maschi siete, cazzo, ecco una femmina. E quale uno di graziati. Gio Mari, mi fa femmina mi piglio a Luca, intanto è buona la barrucca, ma buona la femmina. E allora... La barrucca è sua. Esci fuori là. Beh, quale uno disgraziato ne ha fatto, purtroppo. Dai, io sono bello, carino e secchi, sì. E che ci va per il taglio? Se ne fottende l'anonima, sono lui. Se ne fottende la bellezza lì. Sono un bravo ragazzo, non so come te tenno, randaggio. Catta. Ah, questi a che randaggio è? Sì, no, appena. Ma lo sapevo, Ma lo sapevo, adesso lo so, Dimmi Luca, che sei randaggio. E lui? Vai, sono un po' stoco, Luca, questi buci sono stati tutti quanti. Ti un po' rompiballe, dai, ti fa incazzare, lo fa apposta. Riesci a farmi incazzare, molte volte mi viene a dire balle, no, io ci credo, però non è come dice lui, mi fa incappare, oh, dai, già è tolo, dai. Poi siete di tutti quanti, Edu. Figlio, dopo un bacino e passa tutto. Sì, filo, Luia. Siete di tutti quanti, figlio. Perlomeno, io non so. Io con me ti sei comportato sempre bene, poi. E con chi si comporta bene, ti sei comportato bene. Ma che è lui? Poi, del resto, per me sono tutti amici. Non faccio differenza. Poi, come ti si comporta bene, allora faccio la stessa cosa. Ricambio la stessa moneta, chi si comporta male per me ha finito, chiuso, molto, su tarrato, molti di subizi tutti azzavolati nostri, boom, molto, molto in terra. Ah, ma se quello è un regalici, dai. Io ho subizi in un gastoraggio, tu, non ci fa bocca, tu, molto in terra. Hai capito? E Vincenzo, sta mangiando a Giomito con un cagnolino, no? A te, Gio Maria, sigaro. Capisco perché siete vicini, ma proprio vicini non vi sentite. Strano proprio questa frequenza. Non sono una delle tre camere. Il soggiorno mi sente. Chiamo da letto che è più vicino. Luca! Sto guardando la televisione tramite il telefono, dai. Come tramite il telefono? Ah, ho capito. Ti è collegato il caffetto. Gio Mari, mi hai chiamato? No, tramite... Oh, che occhi ce l'hai? Gio Mari! Oh, mi stavi chiamando? Adesso chi stavi parlando? Con Luca. No, Luca arrivava fortissimo, qui a fondo scala. Tu lo stesso. E già lo sento a Luca, già. Se si avvicina al microfono alla bocca lo sento, se no non lo sento. Lui ha detto di avvicinarti il microfono alla bocca, Gio Maria, se no non ti sente. E ha detto, se guarda la televisione tramite il telefono, no, lui, tramite wifi, no, non ce n'è cavetto. Spiegami come si fa tramite wifi, perché com'è il televisore, wifi è? Ehi, c'è anche il wifi, no? Non c'è bisogno del cavetto HDMI e attaccarlo al telefono. Allora c'è una televisione in Siria? È un 40 pollici. L'hanno regalato. E mi connetto col telefono, metto in modalità trasmetti, poi dal telecomando della televisione, dall'impostazione, e mi posso guardare tutto quello che voglio, capito? Io ce l'avrò questa impostazione, io ho un 42 pollici della Panasonic. Le porte HDMI ce le dovrebbe avere allora comunque, se nel caso non c'è wifi. HDMI sì, ma non credo wifi, ma è di recente questo televisore che te ne ho regalato. Credo che abbia un 4-5 anni, credo. Ah, strano, che marca è? Esiste Toshiba, ormai. Vabbè. Pesante come televisore. No, è di quelli a schermo piatto proprio. Pure che cosa ti regalano? Ehi, quando era venuta mia cognata, ha capito che ne ha parlato tutto da continente. Ah, vai, dai, sei tornato a Darsà e va giù, mi ha regalato il televisore e il magazzino lascio altra roba che ha lasciato, capito, che adesso sei tornato da sopra. Sì, ho capito. No, mi sa che quello lì non ce l'ha wifi. Sì, comunque le porte HDMI ce li ha. Ci sono. Ma lo tengo lontano. Tu pensi, dal letto al televisore ci sono 5-6 metri, anche di più. 5-6 metri, quanto è lunga sta gamba? Ma se sei. Allora, aspetta, fammi pensare. Fa due. No, vabbè, no, fai un'altra cazzata, dai, 5-6 metri, no, ma fai 2-3 metri, dai. Allora c'è cameroni grandi, 3 metri va bene, ok, ci posso anche credere. No, io ce l'ho a un metro, sarà un metro e mezzo. Perché c'è il letto, poi c'è il comò e lì sopra c'è la televisione, capito? Io sono grandi le camere, sono grandi. 4x4. Mi sa anche la mia, 4x3, dai. No, ma ti prendi il cavo HDMI e ti usi il telefono, anche per farti le cose col telefono, capito? Così te lo fai tramite la televisione, che è una comodità. Poi c'è i buoni occhiali, vai dallo schermo del telefono. Ma che sei vero, eh? Cioè, praticamente ti fa vedere tutto, anche internet, così, Tutto, usi il telefono, però lo vedi nella televisione, capito? Io mi guardo film, anche. Ma trasmette anche l'audio, per caso? L'audio del telefono, la TV lo trasmette? In automatico, no. In automatico lo senti nella televisione. Ah, come si sta collegando, cosa ne so, un mixer, da, più o meno, un mixer, ho capito. Ma molto costa questo cavo, però a me ci vuole, trovate un 3 metri. Sì, già ci sono di varie lunghezze. Già va a costare, €100 va a costare. Non costano molto quel cavo, per chi non ha il wifi. Ho capito, Gio Maria, entri in Gianluca. Di che cosa state parlando, il cavo, di che cosa? No, dice che lui c'ha il televisore wifi, praticamente connette il telefono tramite wifi. E si vede col telefono, lo collega alla TV e vede tutto. Per non stare con gli occhiali, capito? Ah. Ce ne so. Sto cazzando questi cavi mezzo ai piedi, io non saranno. Infatti, vabbè. Lasciamo vedere cosa dice la signora, va. Ci sa portare il cane. Luca lo può fare, perché c'ha lo spazio che vuole lui. Noi no, non abbiamo spazio. Diglielo lui. No, Giovanni, tu c'hai i soldi, che è diverso. Sì, l'avrei capito, Sì, io già ti ho capito. Beh, è bello per l'altra dolce. Allora, alla Inde, Luca. Che bello pare, bello bene. Ah, lui ha detto, Gio Maria, che sei il più bello dell'altra dolce, è vero? E c'ha ragione. Sì, infatti. Sì, poi c'è un fascino, guarda. Non sei male, dai. Faccio gonfiare, però, Già sei carino diviso in quattro, però. Ho detto, già è carino diviso, Luca, in quattro. A Gesù su che sennari. Uia, proprio uia. Vabbè. Stiamo arrivando al 3000, Giovanni. Al 3000. Noi non ci saremo al 3000. Ehi, e ce lo visevo. Da far rivire l'altri. Ma che ci riposiamo un po'. Cosa ne dici, Giovanni? Ci riposiamo senza fare niente. Senza fare pensieri. Di pagaghilto, di vaghisso, di comparà, di magnà, insomma, tutte le cose, di lavorare. Di tutto. Graziano non sta più entrando, come mai, Giovanni? Graziano? Graziano non sta più entrando qua, come mai? La taglia l'hanno infatto. No, ma stamattina c'era, l'ho sentito stamattina. Eravamo quasi un quarto d'ora chiacchierando. E mi stava raccontando del maialetto che c'ha in mano, che ti sta facendo vedere. Aspetta, Giovanni, mi stavano telefonando. Sì. Sì, però. E a chi lo parla, bello bene, aiuto. Parla. E le grandi velle, ok? Oh, Luca. Eia. Non Luca, tu, quello più bello. Ah, io sono più bello, più carino, dai. Qualche cappello in più? Ciao Fabrizio. Luca, lo senti a Fabrizio? E lui? Allora, rispondi. Dimmi. No, ti sto ascoltando. Quindi questo microfono non sei riuscito a farlo andare. No, mi ha dato un controllo, Luca. Se a casa, se vuoi, facciamo delle prove. No, sono a casa, sto così. Ma se me l'avvicinavi, al limite si ricostruisce il preamplificatore e basta direttamente. Ma c'è un circuitino con quattro resistenze messe in croce, pensa di che anno è. Non so, questo sarà negli anni 70, forse anche prima. Cioè, perché cosa pensi che ci voglia? Un transistor con quattro fesserie per fare un circuitino amplificatore, come questo che tu hai usato, per esempio, come l'MC50, che è statico, io l'ho creato, che è dinamico, io l'ho creato, l'ho fatto diventare preamplificato. Boh, Ma o è qualcosa da regolare, non lo so, Fabrizio. Perché anche abbassando, mi stava dicendo Luca che stavo facendo male. Ma cos'è quell'SBL? Meglio. Non ho capito. Ma fate le prove, faglielo sentire, così Fabri lo senti tu. Per me non riesce bene. Se aumenta innesca, poi col microfono palmare esce tutto a secondo comprovamento, esce a strappato, basso, non si capisce. Lo deve mettere proprio minimo, allora già esce bene. Però è anche un po' nasino la radio. Dovrebbe essere quella radio, l'abbiamo provata anche ieri, 24.2 è il processore. E andate sul canale 20. Ok. Luca! Tutta la sera qua, grazie, si è affacciato e dopo è sparito, boh. Vedi che è indaffarato, va gente, è indaffarato. Quello è indaffarato con maialetto, mi ha mandato sullo scafo il maialetto, ce lo stava girando da una parte all'altra, e l'ha messo un limone in mezzo alla testa. Cosa posso? Forse lo sta facendo arrosto oggi, boh. Non è che si brucia le mani, no? Ma... è impegnato che se lo sta mangiando pezzo a pezzo. Magari la moglie lo cucina e lui se lo guarda ogni tanto va e prende un pezzo. caspita. Già da voi se ne fa un montone di cose, no? Facciamolo fare, se lo fa peggio. Mi sembra che ho sentito la voce di Marino, no, forse era sulla 27. No, c'è altra gente sulla 27 che non so chi sia. C'ero io pure, c'era già le doppio Ru, c'è Fabrizio, c'è, che sta facendo delle prove da un bel di ore già, con Luca Frittaro. Dopo c'era Luca del Monte, c'ero io, e io mi sono assentato e li sto lasciando parlare. Adesso c'è anche Tino che stanno facendo delle prove. Già, li sto ascoltando, li sto. Vabbè. Ok. C'era Luca che quell'apparecchio non stava uscendo bene, io ne ho dato uno, ma no, dice che non andava bene, boh. E forse vogliono ritoccarlo con l'apparecchio. Ma da persone esperte, no, da loro. Se ne mette in mano Fabrizio, quello che sta parlando. Quello sa, li conosce benissimo, dai. va bene. Cosa ci vuoi fare, boh? Cosa ci vuoi fare? Qua c'era uno che metteva la portante e a tratti e non si voleva fare parlare. Convinto era che ci interrompeva, capito? Se siamo vicini non ci passa neanche lui. Metteva la portante, però passavo e passavo anche gli altri. Qualcuno che si voleva giocare, là. E c'è il Marchese, deve essere indaffarato stasera, oggi ha ospiti. C'è il Marchese, oggi sì. Sono qua. Oi, c'è il Marchese, buonasera, tutto arruito, sì, Macchi. Ma non gli ha fatto i cagarismi oggi? No, buonasera Gian Maria, buonasera Tore. Non lo stavo ascoltando. Capito, stavo ascoltando. Perché stavo smontando un'antenna. che dava un mucchio di casino, e poi cosa aveva? Un casino di roba dentro. Un casino di roba, l'ho smontata. Adesso fa così, domani mattina parte dal contenitore. Senti tu, allora senti a Bacchiglio. Si differenziata, eh? Buonasera. Buonasera, signor Marino. No, Bacchi, cos'è? Lei tolta e deve guardare... cosa c'ha? Signor Bacchiglio! Mi ascolti tu? Sì che ti ascolto, io ascolto tutti. Sì che ce la faccio. Aspetta che c'è anche Marino. Avanti, signor Marino, buonasera. Ciao Maria, c'è anche Bacchiglio. Avanti, Bacchiglio, qua buonasera. Sì, ci siamo sovraccavallati. Buonasera, Marino, ben ascoltato. Ci abbiamo ascolti già stasera, sì, Emmo? Sì, ti ascolto chiaro e forte. Va benissimo. Tu hai detto anche al contrario, l'ho visto, eh. Chiaro e forte. Chiaro e forte perché sono su. Capito? Se cambio roba non mi ascolti. Purtroppo è così. Io agli altri ascolto tutti quanti benissimo. Tu sei in un punto difficile, Bacchi. Cos'è, Marì? Ti sei messo in un punto difficile, devi cambiare casa. Infatti, ma io dico questo. Adesso mi stai ascoltando, fra poco non mi ascolti, aspetta, ti faccio vedere che non mi ascolti pure. No, io se devo utilizzare la tua, devo uscire fuori. Comunque dai, prima ascoltiamo qua, su questa antenna qua, poi magari entro fuori e vediamo se ti ascolto da quella di fuori. Benissimo, avanti, Giovanni. Ok, infatti, a Bacchiglio che vuoi cambiare casa, lì che c'è l'appartamento libero lì al grattacielo, all'ultimo piano, Bacchiglio. Ma lì dove di tutta la Sardegna. Mi piace una bella direttiva, sei a posto, guarda. Mi colleghi ai ripetitori del cellulare, sei a posto. Avanti tu. Sì, non è mai la mia idea. Ma così, nasce, ed è tutto libero. Vero, tu, è lui che è. Deve traslocare subito, ma chi trasloca subito? Ma quando manca l'ascensore, la usi, tu a piedi? L'analisi di Napoli, passati. Tanto è poco guasto, avanti tu. Aspetta, se mi ascolta. Marino. Io ti ascolto bene adesso, ma chi avanti? E se mi ascolti bene? Certo, però sono dentro casa. Fammi uscire fuori, poi ti chiamo io, dai. Aspetta un secondo. Vedi adesso, Marino, se mi ascolti? Ciao. Marino. Che Bacchi si sta chiamando? Evidentemente non lo senti, eh. Non lo sento io, non so se sta parlando o no. Vedi un po' il motore se sta parlando, Marino. Marino! No, sta cambiare antenna. Marino! Cambiando antenna, statore. Sta spostandosi. Ehi, Marì. Ma chi c'è che ti stava chiamando? Bacchiglio, mostrare, pari due. Signor Bacchiglio, aiuto. Ehi, non mi ascolta, Marino, guarda un po' che faccenda è. Boh, la sposti di un pochino, non si sente più un tubo. Non vi sentite a vicenda, va. È un macello. È un macello veramente. Non vi sentite, Marino? Boh. Bisogna fare qualche cosa, se no la questione seria è... No, adesso la metto sul coso, l'antenna. Sul grattacielo la porto. Ma prima lo sentivi a Bacchiglio, Mari. Tu, riprendi tu i piedi. La frequenza malorda questa. Meno male noi la sentiamo un po' tutti, più o meno, to. Infatti, noi la ascoltiamo tutti. Solo che con il portatile viene un po' male ascoltarli. Male stiamo andando. Bisogna trinciarci. Bisogna andare ancora più in alto. Sempre più in alto, con grappa bocchino, diceva Mikey Buongiorno. Marino? Io sto ascolto bene, ma sembra la solita, sì. Ah, ha cambiato l'antenna, ecco, questa è la solita antenna che usavo. Poco fa non mi ascoltavi, no? No, negativo, adesso ti ascolto benissimo. Io sto utilizzando la direttiva in questo passaggio qua. La direttiva, da quello collegato, la tua negativo. Sentivo bene, a te Reggio Maria, a te nulla, neanche il LED si accendeva, figurati. Qua ti ascolto ben forte e chiaro. Ma adesso sono con l'altra antenna. Con la sorella della tua non mi ascoltavi. No, negativo, ok, adesso stacco qua, ma ne vado dentro, qua c'è un po' di fresco, là, questo ce l'ho fuori qui in verandina, ce l'ho, vai. Me ne vado all'interno adesso. Vai all'interno, vai all'interno. Avanti Gianmaria, ora riprendi. Dai, dai. Ma Gerasio, le 8 meno 10, così è. Sì, 8 meno 10, fra poco bisogna andare a mangiare. Sì, infatti, è così, infatti. Giulia, lì c'è proprio una frequenza brutta. Non ci capisce un H, ti sposti adesso questo qui. E questa antenna è messa da 2 metri da terra. Ci metto l'altra sotto e non mi sente lo stesso. La sposti, boh, no, non ne capisco un H più di queste antenne e di questa frequenza. Oh, ma chi ne prende l'antenna? La devi piazzare nel passo di fronte, dove c'è il circolo, proprio di fronte, e sei a posto. Dove è il circolo? Di fronte c'è un circolo, e non è la piazza sopra quel palazzo, e sei a posto, in alto. Bisogna che mi compri una mongolfiera. È l'unica, avanti Giovanni. Patti, quello volevo dire l'altro giorno. Ma riconoscenza quello di Palazzo Alto, Bacchi. Fatti a stare lì, a lungo filo, e sei tranquillo. Ehi, bisogna faccia così. Il filo. Ma questa è l'antenna che uso quassù. Quella che uso giù è quella di poco fa, perché il marino non mi ascoltava. Ho cambiato cavo e via. Chi non mi ascolta cambia la carta carbone, Gianmarì. Io perché ho messo l'antenna fuori. Ma con Gommino penso che non ti senta. Aspetta, voglio fare una prova. Tu riprendi tu e vedi un po' se io accendo con Gommino, vedi un po'. Con Gommino mi pare che... non lo so. Vero, signor Bacchi? Ma con Gommino mi ascoltava da qua. Da casa no, ma da qua sì. Sì, da lì ti ascoltano. Con il coso da giù non lo so. Tu poco fa mi ascoltavi quando stavo chiamando Marino? Sì, che ti ascoltavo io. Da te, da tutti quanti, a Sassa, da Claudio arrivava a Fondoscala ieri, quando l'ho sentito Claudio. Arrivava a Fondoscala, tutti bene. Da Marino nulla da fare. Io penso che Marino ci ha messo una protezione per non sentirlo. Certo, che sia Goscioedo. Mi volete approfittare? Strano è Bacchino, è una frequenza strana, io ascolto tutti bene, solo te non ascoltavo con la tenenda della solo te. Neanche a Marino ascolti. Domani provo a fare qualche lavoretto, qualche modifica bisogna farci, a vedere un po' cosa succede. Gian Maria, mi ascolti? Rosa che ti sento Bacchino, ma tu non senti a me? Io non ti... cosa? Col Gommino ieri? Adesso sono con Gommino. Io ti sento, se sei con Gommino ti sento. Allora siamo a posto, Però senz'altro Marino con Gommino non mi sente. Vabbè, adesso ti sento, ma gli altri giorni non ti sentivo con Gommino, Perché andavo giù, capito? Quando sono giù è un'altra antenna che io sto usando. Ah, Angelo si chiamava, allora è per quello. No, adesso ti sento, Con Gommino ti sento benissimo adesso. Torre a te, prova a parlare a Marino se mi sente. Marino, prova a parlare. Ma con me ce l'hai? Sì, prova a parlare se ascolti a Gian Maria. Negativo, io quando stavo parlando con Bacchino non ascoltavo. Proprio 0.0, non so se lui mi sta ascoltando, avanti. Come lì, non ascolti a Marino. No, negativo, perché sono a parte dietro, forse è per quello, Sono all'indietro a parte le cortine, capito? Forse per quello che non lo sento. E lui lo sente a me senz'altro, però a Bacchisio riesco a sentirlo. E sente anche a me Bacchisio adesso, Sento bene, Fondoscala, Gian Maria arrivi, Fondoscala. Vedi un po', vedi. E sono a parte dietro, in cameretta. E poi ci arrivo. Però, attore lo sento che è benissimo sempre. A Graziano, strano che a te non quando sei con l'altro non ti sento. L'altro non mi ascolti, neanche quella che ha fatto Luca, perché è andata in contatto. Riprendi, signor Tore. Sì, dipende da come è messo. Ma chi mai? Se la metti dove c'hai che tutto qualcosa, dove fai ascolto, a posto di quell'antenna lì? Ma ci vuole un casino del cavo, perché quel cavo deve andare giù in... a casa, capito? Ci vuole un casino del cavo. Uia. Lì sì. No, perché da lì forse riesci a prendere a tutti quanti lì. Lì è più libero ancora. Ma è sempre la stessa direzione della mantova, dove è piazzata la mantova, la stessa misura, solo che la mantova rimane più avanti e questa rimane più indietro. Però ho provato a mettere l'antenna, l'altra, sotto la mantova, nulla da fare, ma lì non mi ascolta lo stesso. Qua a Sassari mi ascoltano tutti. Arrivo su da Antonello, ma Marino, nada da... Infatti, lì è un coso... una posizione brutta, sì, ecco. Boh, o è l'antenna che non imbatti? Ma no, imbatti. Marino, perché ascolta voi e parla con voi, con la sorella che ho io? Dipende sempre dalla posizione, dipende anche. E tu pensa, e io l'ho messa così proprio nel poggio, l'ho messa proprio veloce, e proprio in basso. E se quella lì la piazza sul tetto al posto di dove c'è l'altra, che sul tetto non è, comunque dovrebbe sparare ancora di più, dovrebbe sparare, scusa. Sì, perché tu sei più libero, sì, ecco cos'è, lui è più coperto. Lo lì già è vero, per esempio io adesso sto utilizzando quella interna che mi ha fatto Luca, che mi aveva fatto una a me e una a Battiglio, la mia da quando l'ho piazzata non l'ho mai toccata, è sempre, anzi, forse lo... è infilata dal tubo, forse è troppo, esporgerà un 50 cm fuori del tubo, figurati, e dove c'è la televisione. E invece quella da Chisio è andata male, non lo so perché. Avanti. Tu hai messo il coso lì, un telo per non passare io, capito? Ce l'abbiamo sgamato tutto quanto. Capito, Gian Maria, ci ha messo un telo davanti di plastica, non lo faccio passare. Ecco perché, ecco, e allora bisogna buttarlo giù, cosa gli dici? Caspita, c'è una posizione proprio perfetta. Ma lo si può mettere sotto la mantova, ma chi? L'antenna? Sì, l'ho messo l'altro giorno sotto la mantova. Siccome c'è l'altra antenna, quella che sto usando adesso, sotto la mantova. Sotto quella lì, ancora ci avevo messo l'altra. Zero, riporto zero. Ho alternato, sta uscendo, morì. No, il palo, quello lì. Sto pensando di portarla più in su ancora dell'altra, di andare proprio sotto la mantova, abbassare la mantova, mettere l'antenna e portarla per mettere su. Ok signori, io ne approfitto, sono già le 8, per cui chiudo. Io vi ringrazio la piccola, anche se breve, la chiacchierata la fa sempre piacere, dai. Ciao Bacchisio, saluta in casa e a domani se coincide. Marino e se non mi sente me lo salutate. E saluto anche a Torre, dai, saluto anche in famiglia. A domani Torri, prendi tu e mi ascolti e chiudo, vai. Ok, ciao, buona cena e buonanotte. Sì, ok, dai, ci sentiamo domani, Giovanni. Va benissimo. Riprendi Bacchi. Un attimo Bacchisio, un attimino che approfitto che è arrivata gente. La scusa che c'è mio nipote che sta male, che è un contatto. Stanno venendo a vedere i nipoti a vederlo. Ok, ciao Gio Maria, ciao Tore, ciao Bacchisio. A domani se coincide. Buonasera a tutti, ciao a tutti, riprendi Bacchisio, ciao a domani. Ciao Marino, ciao, salutissimi, saluto al Correa Familiare, magari ci sentiamo domani. Ciao Gian Maria, buona serata anche per te, buon QRT, un saluto al Correa Familiare e ci sentiamo domani se coincide. Tore, riprendi. Sì, ok, ciao Mari, ci sentiamo magari domani o le prossime, quando vuoi. Andave, ciao Marino. Vabbè Bacchi, riprendi. Riprendo e chiudiamo perché... per me è arrivata l'ora del merendero, le pastiglie, alle 8, capito? 10 minuti prima della cena devo prenderle. Anda bene me, dottore, ci sentiamo domani, to. Salutissimi, saluta il Correa familiare e fatti vedere, non fare il bandito. Bye bye. Ok, Bachi, ci sentiamo, va bene, a domani, dai. Ok, ciao. Ciao, dottore, ciao.